Dai mirabolanti studi di Radio Alma, a inizio la millesima puntata di 100 città, programma culturale coinvolgente ma soprattutto paradossale, con Giulio in regia ed è da qui ai microfoni per voi con 100 città. Benvenuti a tutti a questa nuova puntata. Allora ringrazio veramente tutti i nostri ascoltatori, perché oramai vantiamo uno street team di tutto rispetto, riceviamo giornalmente centinaia di mail dove ci richiedono di fare la loro città, ma dovete invogliarci da parlare di questa città, quindi dovete darci degli spunti, delle idee, raccontarci delle storie che vi riguardano. Allora scriveteci a radioalma@gmail.com alla cortese attenzione o di Giulio o di Deda e noi cercheremo di rispondervi. Ciao Giulio, benvenuto. Ciao a tutti. Ciao a tutti le nostre fans per Giulio, sempre qua fuori dalla radio, come al solito, che bussano sul vetro cercando di capire. Stanno strappando sguardo. I capelli. Mi suggeriscono. Ma adesso la prossima puntata magari ne invitiamo una qua in studio e vediamo di cercare di combinare un incontro. Sarebbe ora che, insomma, qua mi sembra che la presenza in studio questa sera non sia molto attraente. Ma poi ne parleremo, perché questa trasmissione sta diventando veramente ingestibile. Non riusciamo più ad avere ospiti normali o semplicemente decenti. Infatti ne è bastato invitarne due la volta scorsa, nell'ultima puntata, e se sa, tra di loro si conoscono, si sono sparsi la voce, e visto che al peggio non c'è mai fine, oggi non ci smentiamo e abbiamo qua con noi un rappresentante abitante della città di cui andremo a parlare, che è temporaneamente qui a Bruxelles in vacanza a passeggiare in giro per locali, vuol far credere che va a lavorare, no, per qualche, non so, istituzione, non si sa che cosa faccia. Noi lo vediamo sempre in giro a bere con amici, a divertirsi. Però vabbè, diamo il benvenuto a Giacomo, al quale diamo la parola, e attraverso il suo accento già potrete cercare di capire di che città andiamo a parlare. Ciao Giacomo, benvenuto! Ciao bellezza, come va? Tutto bene, allora dici un po' di te, sei un ragazzo di, vuoi dire l'età, vuoi tenerla nascosta, non so. Ma tanto non mi vedono, quindi posso anche dirlo. C'ho 26 anni, vengo da Milano e sono a Bruxelles da un paio di mesi, fondamentalmente, dove, come dici giustamente tu, faccio finta di lavorare. Allora, Giacomo si è scoperto e ha scoperto anche la città di cui andremo a parlare stasera, che è Milano. Cavolo, Giacomo, io volevo creare un po' di suspense, te mi hai già scoperto la città e vabbè. È più forte di me, Deda, scusami, l'appartenenza cittadina è fondamentale. Doveva dirlo. Allora, noi dobbiamo constatare prima di tutto che tu sia una persona normale, perché cioè a vederti così abbiamo un po' di dubbi, ma quindi vogliamo che i nostri ospiti siano credibili. Allora Giacomo, vi dico per le ascoltatrici qua, Giacomo è single? No, Giacomo è fidanzato. Giacomo è fidanzato, vabbè, mi dispiace ragazzi, perché Giacomo ha un super loft sui Navigli, non esce il sabato perché è pieno di truzzi, ha amici che sono troppo pazzi, è un tipo complicato e sfoggia la frangetta, che è un must a Milano. Allora, quindi non sapeva che cavolo fare, è venuto qui a farsi una vacanzina e si sa, no, che il milanese viaggia, fa, conosce, lavora, guadagna e pretende. Allora, quindi noi dobbiamo mettere alla prova questo milanese e vediamo un attimo subito di fargli un test. Innanzitutto, tu ti ritieni truzzo, fighetto, pigoldino, emo? Allora, già, guardiamo un attimo, no? Ci sono, perché la Milano è fashion, no? È piena di tendenze, è fashion victim. Sì. E quindi vedi questi emo in giro per la strada, dai, gli emo intanto mi sai spiegare un po'? Ma gli emo sono, se si può dire, un'evoluzione di quello che erano una volta i panchettoni che c'erano al liceo quando andavo io a scuola. Adesso con l'emo-core, l'evoluzione dell'hardcore all'emo-core, immagino che siano la naturale conseguenza della... E poi ci sono i fighetti. Fighetti sono una, diciamo, una grande maggioranza della città, soprattutto nel centro. Si trovano particolar modo sparsi nelle scuole cattoliche private di tutta la città. Sono abbastanza riconoscibili per il loro stampo inconfondibile nelle marche, nei vestiti. Ma li trovi anche in università, tipo Bocconi, cattolica. A Quintana. E vanno nei negozi magari con la bocca a culo di gallina, no? Si dice, a chiedere delle scarpine firmate, no? Certo, certo, soprattutto durante, li vedi soprattutto durante i saldi, perché... Esatto. Ma lì le trovi le code di cristiani fuori. No, io so che il milanese, no, fa il figo, dice, io mi sono comprata il Louis Vuitton, il Guccino, il Pradino, e invece va dal marocchino, dal nero, e compra quella tarocca. Vabbè, perché anche noi iniziamo a sentire il peso della crisi, esattamente, il peso della crisi arriva anche a Milano. Ah, quindi tu ti sei messo nella Milano bene con questa dichiarazione, abbiamo scoperto che fa parte della Milano bene. Beh, se facessi parte della Milano bene ti assicuro che avrei un loft pure qui, oltre che quello sui Navigli, vero, ovviamente. C'ha già quello sui Navigli. Allora, poi ci sono gli house e i pigodini, perché io ho un cugino, no, a Milano, che lui è, non so, si mette il boa di struzzo rosa intorno al collo, no? E poi si mette quelle calze nelle mani a rete rosa, rosa fluorescenti, e va a ballare l'house con le canotte, i jeans aderenti. E tu che sei venuto qua oggi in trasmissione, che penso, pensi di essere vestito bene, no? Volevo chiederti, ci provo, se tu ti senti appartenente a qualche tribù tra queste, no? Ma diciamo che tribù è una parola grossa, io faccio fatica a pensare anche a cosa mi devo mettere addosso la mattina, quindi faccio molto a caso come roba, non è che me ne sbatta un granché. Diciamo che quello che mi fa cagare non lo metto. Ok, mettiamo... E quindi non ti identifichi, diciamo, in nessuna crew milanese? So in cosa non mi identifico, quello sicuramente. Ok, quindi magari non ti piacciono i fighetti, no? No, no, non in particolar modo. È vero che gli emo stanno nelle colonne? C'è una zona dove stanno gli emo, in centro, vicino al Duomo, no? Beh, in colonne ci va un po' di tutto, un po' di tutto di più. Puoi trovare dall'alcolizzato panchettone al super fighetto a fare preserata. Quindi. Beh, una bella zona, no? Sì, sì, io mi diverto, vado sempre. Bere lì. E allora senti, Milano, no, è divisa a cerchi concentrici, sì, circonvallazioni, vero, cinque anelli principali, che lo diciamo, sono i Navigli, il Bastione o Mura Spagnole, circonvallazione dei Viali, circonvallazione più esterna e l'anello delle tangenziali, sì. Allora poniamo un po' questa domanda dantesca al nostro ospite barra condannato e gli chiediamo in quale cerchia vive. Ma io vivo, diciamo, nella, si può dire, seconda cerchia, ossia sono fuori dalle porte, perché abito in Corso Sempione, quindi davanti all'entrata del centro praticamente, però all'interno fuori dalla zona traffico limitato, famosa zona Ecopass istituita di recente e magistralmente. E poi c'è il super loft sui Navigli. Il super loft sui Navigli, ma quella è la casa d'appoggio. Come ah, quella casa d'appoggio. Appoggio. Allora, torniamo tra poco con Giacomo, tra poco con Milano. Ciao. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io. No, tu no. Per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io, no tu no. Con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io, no, no. dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sciolto l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io, no tu no. Per vedere se la gente poi piange davvero e capire che per tutti è una cosa normale, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ciao, bentornati a Radio Alma, Centro Città, qua parliamo di Milano, abbiamo il Belusha, Giacomo, ciao Giacomo. Ciao Deda. Ecco, sentite il suo accento, è un milanese doc, fa, guadagna e pretende. E allora abbiamo qua con la sua cravattina, la sua camicina. Io gli voglio chiedere dove va lui a Milano la sera, cosa fa, cosa c'è di bello, insomma, perché so che ci sono dei locali molto fighi dove si fa l'aperitivino e poi tutti a ballare in discoteca. Io sono stata a Gioia 69. Conosco. Cioè, i milanesi sono frustratissimi. Arriva il sabato e delirio in pista. Tutti a ballare, non c'è spazio, no? È vero, però prima di tutto sottolineiamo: l'aperitivo è un must. Quindi da lì non si scappa assolutamente. Il maestro dell'aperitivo abbiamo in studio. Regole milanesi. L'aperitivo, infatti, devo dire che penso sia un'invenzione dei milanesi ed è un'ottima idea per scappare dal lavoro e infilarsi qualcosa di alcolico nello stomaco, oltretutto accompagnata anche da un bel piatto caldo, perché spesso e volentieri nei locali a Milano trovi anche da mangiare e mangiare anche bene. Quindi noi abbiamo sempre questa tradizione, diciamo, di incontrarci verso le 7 post lavoro in locali più piacevole quando il clima è, diciamo, estivo, all'aperto. Quindi mai. E quando fa caldo devi dire che spettacolo, poi, tra l'altro, perché all'aperitivo sono tutte le donne che si infighettano a sfilate di moda. Ah, è vero, ovviamente. Perché il milanese è sempre super lampadato, sempre perfetto. Sempre. Ma cosa avete? Il coiffeur a casa, come cavolo fa? Ma alcune volte sulle donne me lo chiedo anch'io, in effetti. Cazzo, quando andavo in università vedevo delle tipe che sembravano uscite da una serata in discoteca, non lo so, cazzo, erano le 8 del mattino, figa, io tutto ancora incoglionito, mi stavo ancora svegliando, queste qua con tacchi a spillo, cappello da cowboy, mega minigonna, tutte truccate, detto figa, oh, ma tu hai dormito un'ora, cioè, sei andata a ballare, sei direttamente così. Ma c'è una canzone, no, che è la Frangetta di Milano, che dice che il milanese fa il figo, va a fare l'aperitivo, va in discoteca e poi va alle mostre d'arte. Tu ci vai alle mostre d'arte? Ci sono delle mostre da vedere a Milano? Devo dire che a Milano fortunatamente ogni tanto saltano fuori delle mostre interessanti, e per esempio in Triennale ci sono moltissime mostre che possono soddisfare diversi gusti a seconda delle per esempio io ho visto Kate Haring ultimamente. Gli artisti che lui fa finta di conoscere, ma in realtà va a leggere prima di andare a vedere la mostra. No, perché facevo il catering alla Triennale, quindi... Ah, beh, allora ok. Ma sotto quest'aria, no, bella, elegante, questa voce impostata, magari tu dici, a me sembra che tu possa appartenere a quelli che sono definiti magari i fighetti di Milano, ma e quindi non ti ritieni un truzzo? No, decisamente no. Ma però lascialo definire a questo test, che è infallibile e scientificamente provato. Oh. Iniziamo con le domande. Vai. Il test intitola appunto "Quanto sei truzzo?". Magari non sai di esserlo, ma fai questo test e poi lo scoprirai. Iniziamo con un cantante che immagino a te piaccia molto. Gigi D'Alessio. Figa. Allora, ti regalo un CD di Gigi D'Alessio. Cosa fai? Ringrazi e lo ascolti due volte all'anno circa, oppure comincia a saltare come un pazzo e baci quello che te l'ha regalato, oppure ringrazi e poi torna a casa e lo bruci causando un incendio che distrugge il tuo palazzo. Direi la terza. A scapito di uccidere anche tutti gli animali e gli esseri umani nel mio condominio. Salutiamo Gigi. Poi, come scrivi 3 metri sopra il cielo? 3 metri sopra il cielo, oppure 3 msk, oppure non lo scrivi? Anche lì siamo sempre sulla terza. Appartiene a una tradizione romana, 3 metri sopra il cielo, quindi diciamo che possiamo... Perché il romano è un po' truzzino, dai, diciamo, quindi... Un po' più rozzo. Diciamo. Un po' teruno. Sei un teruno. E di queste marche preferisci D&G, Playboy, Armani, Fruit of the Loom, oppure Converse, Vans e tutta sta roba qui? Nike, Puma, Adidas. Diciamo che non ho i soldi per comprarmi Armani per, dal marocchino sì però. Dal marocchino sì, in effetti sì. Poi leggendo Gomorra in effetti è la stessa roba, quindi. Allora ti compri le cose firmate tarocche. Sì. Perfetto. Che poi sono quelle vere. Cosa pensi delle maglie rosa per i ragazzi? Sono buoni per pulirsi Ma oppure... sei vestito in rosa. È rosa dalla testa ai piedi. Tu c'hai l'occhio lungo, Figa, proprio in la figa, tua figa, no? Figa. Va bene per i ciclisti il Giro d'Italia quando finisce a Milano. Sembra la un chewing gum stasera, Giacomo. Tutto una big bubble. Beh, sono un po' ciclista pure io, più che altro per il doping. Ma era il primo, il migliore. Quale di questi programmi preferisci in cui vorresti partecipare? Amici Colorado oppure odi i programmi? Beh, per Radio sì. Alma non glielo mettiamo. Sì, infatti. Farei anche l'ospite fisso. L'ospite fisso, allora lo l'opinionista. L'opinionista. Tuttologo. Possiamo anche parlare di calcio, cosa ne dici? Un po' come Tonò. Dove vorresti trascorrere le tue vacanze? A Ibiza, Londra oppure a Porto Cervo? I Caraibi non me li hai messi. Sì. Anche Caraibi. Le Maldive, questi posti qua un po' senza troppa gente. Beh, allora mettiamo Ibiza. Ibiza, e se potessi rinascere in un periodo diverso, sceglieresti questo, gli anni 60 oppure tra 10 anni? No, gli anni 60. Cioè, nato negli anni 50, negli anni 60 avere almeno 18 anni, un 68. No, un 68, un fighetto fuori, un ribelle dentro, no? Un ribelle dentro perché io so delle cose di te, so che tu hai avuto un passato burrascoso. Beh, non diciamolo adesso che siamo in un periodo di contestazioni studentesche, che poi non si sa mai che qualcuno voglia mandare la polizia pure dentro Radio Alma a prenderci. Allora però lasciamo sì, questo alone di mistero. È vero. Ci sono stati delle contestazioni anche ai nostri anni. E io mi sono messo a capo del mio istituto come rappresentante di istituto. Mi hanno dato una bel richiamo per sequestro di persona perché ho avuto la bella idea di chiudere con una catena il cancello della scuola per l'occupazione per far votare la gente. Il preside diceva che io avevo sequestrato 80 docenti. Ditemi voi cosa abbiamo me ne faccio io di 80 docenti. Abbiamo un criminale internazionale in studio, Deda. Noi a essere così ottimisti, che lui invitare in gente esilio, a caso. In guarda esilio, cosa a ti capita. Sì, in realtà non posso più passare le Alpi. Ti ascolterai musica quelle tipo, non so, i Modena City Ramblers, no, no, a dire il vero io ascolto musica elettronica, quindi anche raver. Allora abbiamo un fighetto che dentro è ribelle, un po' sessantottino e anche raver. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Te l'ho detto quando mi chiedevi dove mi inquadravo, che è difficile inquadrare. È difficile inquadrare un ragazzo misterioso. Allora adesso però il nostro test indovina sicuramente la tua vera identità. Allora calcoliamo, ecco qua il risultato, che dice: sei un fighetto con la voglia latente di diventare truzzo e spesso soffri di ansie compulsive per questo dilemma segreto. Così è, questo test è scientificamente provato e quindi siamo arrivati a questa conclusione che abbiamo questo truzzo. Ma ascolta, noi qua siamo in una città veramente internazionale. Allora, vai in una strada e ti sembra di essere in un altro continente proprio. Vai in un'altra strada e ti sembra di essere in Cina, no? Ma in Milano, no, c'è un quartiere famosissimo che tu avrai visto, avrai frequentato, figa. Sarai un abitué, no? Beh, abitué, diciamo, c'è un amico che ci abita, quindi ci passo spesso e volentieri. Quindi il tuo amico non è italiano? No, il mio amico è uno degli ultimi reduci. Diciamo, il tuo amico come si trova in questa zona? Il mio amico, guarda, te lo dico gentilmente, con il napalm. Te lo dicesse lui sarebbe molto più violento. E dici un po' la zona di cui stiamo parlando? Dice sì, il nome della via principale Paolo Sarpi, esatto. In gergo Chinatown. Che è nata inizialmente perché c'erano molte industrie tessili e poi si è sviluppata. Adesso ci sono in questa zona anche gli internet point, le agenzie di viaggio. È diventata una vera e propria comunità. Anche banche. Anche banche. Hanno comprato tutto, comprano. Con contante. Abbiamo il cinese azionista a Milano, hai capito? va in giro per Milano, parla con l'accento così. No, non parlano proprio. Non ti rivolgono la parola. Non ti rivolgono la parola perché sono chiusi tra di loro. Abbastanza. E ti dico una cosa che magari non sai, visto che è una novità degli ultimi giorni: il nostro sindaco ha piazzato la zona traffico limitato anche lì dentro. Oh. E adesso per i grossisti è un grande problema, perché non possono più entrare con i camion a certe ore. Solo i residenti possono passarci dentro. I camion di una certa età non possono più passare. Diciamo che l'obiettivo è cacciarli via. A me non dispiacciono loro, sinceramente. Poi viverci dentro magari è un altro discorso. Ma dai, però io ci vado anche a mangiare. Non sì, dà sì. Fastidio, pieno di ristorantini. No? Dove si mangia oltretutto benissimo, mi hanno detto. Devi scegliere, devi conoscere. Perché? Devi conoscere, perché puoi anche trovare le gran schifezze. La polpetta di carta. Esattamente. Il gattino. Il topo, visto che di ratti a Milano sottoterra ce ne sono parecchi. E di gatti non ce n'è neanche uno, mi hanno detto. Gatti randagi, no. Tu non vedi gatti per Milano. In casa mia. Ne vedo uno, ma mio. Ma non vedi animali proprio in giro, cani, gatti, cioè no, Milano. No, piccioni. È solo pieno di piccioni. Corvi Milano. Anche. Ma a Milano si sta facendo qualcosa per il problema dei piccioni, per esempio? Ma una volta avevano fatto tipo dato delle robe avvelenate, chicchi di grano in Piazza Duomo. Crudeltà. Crudelissimo. Chiamiamo il WWF, ma non anche a me dispiace. Cioè, sinceramente mi fa schifo, però comunque ucciderli così sembra un po' ignobile. Ma ascolta, ma tu lo sai che invece c'è un sistema un po' più artigianale per scacciare questi piccioni, che sono delle ventole, delle girelle appostate nei balconi vicino al centro di Milano, nel centro di Milano, per cercare di scacciare i piccioni. Non lo sapevo, geniale. Però c'è un test, sempre su questi piccioni, che si intitola "I piccioni purtroppo fanno la cacca sul mio balcone. Allora, iniziamo con la domanda e vediamo un po' cosa ci risponde. Perché i piccioni ignorano impunemente le girandole montate sul balcone? Perché i piccioni, il problema è che se ne fottono, no? Un animale intelligente il piccione, ha imparato a essere sgamato pure lui. Allora questa è la tua risposta, perché questa era una delle opzioni. Ah, vedi? Perché il piccione, che è milanese, no? Si è fatto furbo. Appunto, se era Napoli finiva dentro la ventola, probabilmente. Milanese la evita. Questo è qualche dubbio. L'altra domanda, sempre sui piccioni: cosa pensi delle girandole che sono state montate abilmente sul balcone? Sono carine da vedere, oppure le osserveresti per ore vorticare al soffio del caldo vento d'estate? Oppure pensi che potrebbe impiegare il tempo che hai utilizzato per montare per uccidere i piccioni personalmente? La terza. Uccidere i piccioni personalmente. Sì. E adesso passiamo a un altro argomento, dai piccioni passiamo ai polentoni. Sai questa parola? Polenta. Sì, cazzo. Ecco, non c'è un nordico che non gli piace la polenta, ma... La vorrei anche vedere. Mi hanno chiamato così i terun, come li chiamate voi, perché si associa la polenta a un piatto insulso, un po' come voi. E anche dicono che siete lenti, no? Che siete sempre lì. Noi lenti. Passivi. Ma chi è che te l'ha detto? Un siciliano che siamo lenti. Questo sì, quello che dicono di voi. Se noi siamo lenti, cosa fanno quelli? Dormono. È quello che dicono di voi quelli di giù. Dicono che siete lenti. Ma siamo schizofrenici noi. Invece il terrone, tu mi sai dire da dove deriva la parola terrone? Dal lavoratore della terra, in quanto sottosviluppo del sud Italia ai tempi dell'unità avevano più campi giù nel sud di quanti non ne avessero nel nord, dove c'erano le industrie. Infatti non era un termine di insulto, no, ai tempi, quando è stato... Penso, non so quando sia stato forgiato, però comunque era proprio il lavoratore della terra, contadino fondamentalmente. E le sai le varie inflessioni? Per esempio in Lombardia si dice terun. In Piemonte? In Piemonte non lo so. Terù. Ah, sempre male. In Veneto teron. E in Emilia Romagna, che noi siamo creativi, Giulio, non ce ne bastava uno, no? Allora ne abbiamo fatti tre versioni, che sono teroc, taron e tarun. Bello teroc però. Taroc è carino. Non male. Ma in generale nei dialetti dell'Italia settentrionale si dice terone. Il termine terrone che tu spiegavi è vero quello che dici, ma deriva anche dalla parola terremoto, perché in queste zone, no, ci sono sempre appunto dei gran cataclismi, e da qui la parola terrone, perché il terrone è dinamico, no? Si associa anche non solo al terremoto, ma anche al fatto che il terrone è sempre dinamico, pieno di energie, in contrapposizione a polentone, dove siete sempre lenti, flemmatici, reagite poco, sempre così tutti educati, no? E c'è una cosa che cioè ti leggo quello che pensano quelli di giù di voi, e dice: il polentone è disciplinato, ai semafori si ferma con l'aria smarrita e indifesa, fa la fila, si lamenta, ma non in modo incisivo. È un borbottio, un'invettiva smozzicata. A 18 anni lavora già come un molo. In famiglia hanno il culto del lavoro, della sveglia alle 6. Chi lavora ha i soldi, chi ha i soldi apprezzato, chi ha i soldi può farsi le lampade e sembrare un biscottino della Mulino Bianco anche a novembre. E sotto quell'aspetto biscottato ci sono i vestiti firmati e portano gli occhiali da sole, anche se il sole non c'è, per tutto l'anno. Anche in discoteca. Parco Sempione, verde e marrone, dentro la mia città. Metto sul vibro, leggo un bel libro, cerco un po' di relax. All'improvviso, senza preavviso, si sente un pim pam pum. Un fricchettone, forse drogato, suona e non smette più. Bonghi. Questo fatto mi turba, perché suona di merda. Non ha il senso del ritmo e non leggo più il libro. Quasi quasi mi alzo, vado a chiedergli perché ha deciso che cazzo proprio oggi niente lo fermerà. Piantala con sti bonghi, non siamo mica in Africa. Porti i capelli lunghi, ma devi fare pratica. Sei sempre fuori tempo, così mi uccidi l'Africa. Che avrà pure tanti problemi, ma di sicuro non quello del ritmo. Dai due bulli e cade su una mail. Su tre a papà l'hai pep, anche se duomo tanta. Oggi in balera con la mia miel. Ciabatti bonghi. Caro signore, sa che le dico, questa è la libertà. Sono drogato, suono sbagliato, anche se a lei non va. Non vado a tempo, lo so da tempo, non è una novità. Io me ne fotto, cucco di brutto, grazie al mio pim pum pam. Bonghi. Questa cosa mi turba e mi sento di merda. Quasi quasi mi siedo ed ascolto un po' meglio. Forse, forse mi sbaglio. Forse ho preso un abbaglio. Forse, forse un bel cazzo. Fai cagare, questa è la verità. Bentornati a Radio Alma, 100 città. Sempre qua Giacomo, il nostro milanese doc. Allora, Giacomo era qua che voleva, insomma, replicare perché... Ah sì, mi sembra che tra tutte le accuse più insulse che i nostri cari vicini del piano di sotto ci rivolgono, quella di essere poco dinamici e lenti è proprio la più ridicola che abbia mai sentito. Ti invito volentieri a farti un bel girettino con il sottoscritto alle 8 del mattino in tangenziale per farti vedere quanto sono carini e simpatici i milanesi alle 8 del mattino quando devono andare a lavoro. Tu provi a superarli sulla destra, c'è quello che ti spara alle gomme, quell'altro che ti insulta tutti i parenti, anche quelli che sono morti da tre generazioni. Una giungla proprio. Una giungla. Questa giungla. È maleducazione, non è dinamicità. No, è violenza che diverso. È attaccamento al lavoro, perché perdere un minuto è anche quello importante. Hai presente Fantozzi lavora, che corre? Corre per timbrare il cartellino, ecco. Prende l'autobus al volo. Tu l'hai mai preso l'autobus al volo? No, perché fortunatamente c'ho il motorino. Allora hanno ragione a dire quelli che voi chiamate terun, che i polentoni lavorano come dei muli. Sì, sì, sì, decisamente. Lavorare, guadagnare, spendere, no? È per forza. È per forza. Ma senti, ma te lo sai, no, che Milano una volta era la capitale della Transpadania? Sì, sì. E certo. Coi tempi che corrono oggi, purtroppo, potrebbe ridiventare la capitale magari della Padania con Bossi come re. E in meridione sai che ci metterei sua moglie, perché sua moglie è di origine siciliana, certo, è certo, siciliana. Padre, è quello il bello, è quello la parte di Arte. E quindi si potrebbe benissimo fare queste due suddivisione con la moglie di Bossi al sud e Bossi al nord. Pensa che bel regno d'Italia. Bello, sì. Però quasi quasi rimango in Belgio. Con lo slogan di Bossi che ormai è famosissimo, ma non lo dice questo rumore. Facciamo il rumore che lo possono sentire gli ascoltatori. Non lo diciamo, ma chissà se ti sentisse qua. No, perché Lumberto, ripetemi un attimo come li chiami quelli di giù? Terun? No, ma io vorrei sapere se ti sentisse veramente qualcuno di giù cosa ti direbbe. Bah, dovrebbe abbassare il capo. Secondo me direbbe "Uè, testena". E abbiamo qua i microfoni. Scatta il dibattito in diretta. L'altra parte dell'Italia. Benvenuta. Bene, bene, te. Benvenuta Jessica. Ciao. Benvenuta Jessica, l'abbiamo già avuta qua ai microfoni con la puntata di Napoli. Abbiamo voluto fare un confronto tra il nord e il sud e abbiamo qua un pulentone nato in Run. E allora, bellissimo, meglio di così. Prima di tutto io so che lui ti voleva raccontare una barzelletta carina per metterti subito a tuo agio. Ah, che carino, grazie. Sì, sapendo che arrivavi, diciamo che mi sono preparato, conoscendoti, so che tu hai un gran senso dell'umorismo, come tutta la gente della tua zona, fondamentalmente. Vero. Allora. E qua la sviolinata che i milanesi sono sempre bravi a farla, no? A dire il vero, ero ironico. Guardiamoci se faccio, complimenti a Africa qua a fianco. Austria, ma che dici? No, allora, partiamo con questa barzelletta. Tre barboni a Milano decidono di fare una gara per vedere chi raccoglie più soldi. Ci sono anche i barboni. Tre barboni, sono a Milano. Vedere chi raccoglie più elemosine in un giorno. La sera si ritrova il primo barbone e dice: allora, io ho guadagnato 10 euro. Bravo, applausi, congratulazioni. Secondo barbone: io ho guadagnato 20 euro. Bravo, complimenti, sei un fenomeno. Terzo barbone: io ho fatto 1500 euro. La faccia, una faccia. Bravo, figa. Come altri due gli fanno: come cazzo hai fatto? E lui mi fa: beh, sono furbo io, mica un pirra. Sono messo davanti a Piazza Duomo con un cartello scritto: sono meridionale e non ho i soldi per tornare a casa. No. La generosità è stata immediata. Sì, ma no, io non lo sopporto questo, perché tra l'altro ho anche la fortuna di lavorarci insieme. È vero, è vero, è vero. Sì, cioè, è una lotta continua. Ma sì, ma io voglio sentirvi a leggere una pièce teatrale dove praticamente c'è un dialogo, no? Tra il genero e il suocero. Jessica sarà Jessico in questo ruolo e leggerà la parte del sud, quindi cerca un attimo di tirare fuori tutto l'uomo che c'è in te. Ma vediamo che sono arrivati anche gli altri ospiti. Ma c'è un party là in regia. Sto facendo un festino in regia. Ho visto Morito, caipirosca, caipirinha, bottiglia di vodka. Anche a noi. Portate. Venite qua, entrate, portateci un po' da bere. Facciamo sta aperitivo alla milanese. Facciamo aperitivo, intanto sentiamo questo racconto, questa pièce teatrale dai nostri ospiti. Miguel, ho proprio contro sti terun, che a noi ci chiamano tutti pulentun. Porca loca, mi vorrei sfugare con sti strunel che la vuoi a cantare. Ma stai zitto, mangia polenta, questo terrone tuo figlio è contenta. Meridionali siamo ingegnosi e in continente abbiamo limorosi. E ma adesso il nord replica. Ma guarda un po' che mi tocca sentire, da me un futuro genero in famiglia, piuttosto la mitusa fa morire che darla a questo tappo di bottiglie. Siamo sette belli bambini, tutti polenti e terroncini, tutti felici, tutti contenti, fanno famiglia nei continenti, minchia! Bravissimi! Questo è veramente... Bravi! Grazie! Una grande interpretazione! Allora, sono arrivati con noi degli altri ospiti che vengono sempre dal nord. Abbiamo un simpatico soggetto con un'altra cosa, un'altra persona, quella che ha in testa. Che cos'è? È un essere vivente. È un essere vivente. È una pianta. Una vita autonoma. Una vita autonoma. Allora, ai microfoni c'è... Avvicinatevi ai microfoni. Anselmo. Anselmo e la giovincella. La Giulia. E da Parma. Giulia da Parma e Anselmo da Piacenza. Anselmo da... ma sembra di averti già visto, Anselmo, però... Ma io è la prima volta che ti vedo. Ma io ho questa voce, quella, quei capelli. Ma perché le voci del nord sono simili. Allora ragazzi, noi qua abbiamo Milano e Napoli a confine. Che parte state innanzitutto? Ma un bel bombardamento a tappeto. Salvano soltanto la loro regione, giustamente. Perché Anselmo odia sia i milanesi che i napoletani. Ma anche i piacentini. Anselmo, te devi andare a vivere sulla luna. Cioè, devi venire a vivere a Parma. Oppure vai a vivere a Parma. Che si sta meglio. L'isola felice. Esatto. Sì. L'isola veramente. Una spanna, no? No, va bene. Ascolta, ma consigliaci un po' di monumenti da andare a vedere magari a Milano. Per questi ragazzi che... Non so, a te interessa la cultura, non so, i monumenti, l'arte, sai che, di cosa sto parlando? Arte, mi capisci? Sì, una volta ho letto una didascalia che parlava di qualcosa del genere. Perché lui, il nostro Anselmo, che è qua ospite con noi, si occupa di arte concettuale. Arte concettuale? E ha fatto un monumento dove c'è un gatto che vomita oro. A Napoli che potete trovare a Napoli. E volevo chiedere se dove lo troviamo, scusa, che beh innanzitutto potete guardare sul sito www.gattochevomita.org splinder.com. Esatto, però tu hai fatto un altro monumento, un'altra realizzazione artistica, che è a Milano. Sì. Mi dicevi. Sì, è vero. Puoi dare un'anticipazione, perché ancora ci deve essere l'inaugurazione. Diciamo che resta sempre sul tema di gatti. Specie mammifere. E resta sempre sul tema della digestione in tutti i suoi effetti. Beh, interessante. Benissimo. E quindi è questo legame fra, diciamo, si incentra su questo legame fra metabolismo biologico e catalogazione delle specie, quindi questo cross fra biologia e etologia, insomma, ricercata. Sì, immagino. E poi mi hanno detto che tu fai una cosa perché ti piace proprio, vai davanti al Duomo, no? Mm-hmm. Allora, tu devi sapere che tutti i milanesi odiano i piccioni. Mm-hmm. Vero, Giacomo, no? Figa, ci rovinano i monumenti. Giacomo, quelli che arrivano in Piazza Duomo e si mettono a dar da mangiare i piccioni, a tirarli tutti, tu li odi, li vorresti uccidere. Io prenderei a calci in culo. A calci in culo. E invece pensa che Anselmo, lui fa questo di mestiere come attrazione turistica, si mette in centro a Piazza Duomo con ricoperto di briciole completamente. E tutti i piccioni arrivano addosso a lui e lui può star lì per ore con questi piccioni che sono addosso, no? Dici questa esperienza. Ma è un'esperienza, diciamo, mistica, perché dopo un po' non... Non vedi nulla, non respiri, però senti questo odore che all'inizio è sgradevole, ma poi inizi anche ad affezionarti, inizi a vivere una nuova dimensione. Poi dopo 6 o 7 ore, quando rivedi la luce del sole e ti vengono i capelli così. Sì, ma mi sa che non solo i capelli gli vengono. Però è un'esperienza di riscoperta interiore. Bellissimo. Come scopri la merda di piccione che c'è in te. Allora, se volete vedere Anselmo, basta che andate in Piazza Duomo e quando vedete un cumulo di piccioni a forma umana, vuol dire che lì sotto c'è Anselmo. Ma adesso mi piacerebbe fare una cosa un po' bizzarra. Cioè, vorrei vedere come una persona del sud, che Giacomo chiama Terun, però da contro Jessica chiama Parentore, vorrei vedere come legge magari un po' di questi proverbi milanese. Sentiamo. Allora, li leggi tu e poi li legge lui. Vediamo. Ok. Mazza, a questa vu te cuscemmo jambu. Chi l'ora ga una camisa e chi fa una got che nadò. Dag una petennada. Sembra portoghese. Sembra portoghese, decisamente sì. E adesso la legge lui. A questa punta cusciamo un jambon. È uguale. Beh, sì. Direi che l'interpretazione. A me piace di più, mi sembra più naturale la. Grazie, Giulia, grazie. Lo so. Beh, ma in effetti la fanciulla talento. Dai, cos'è una dag, una petenada? Spiega. Botte pesanti, sono quelle che ti pigli tutti i giorni. Dillo te, dillo te. Botte pesanti. Nel tuo idioma milanese, una petenada. Dag una petenada. Una manica di botte. Si pronuncia così. Dag una petenada. Dag una petenada. Dag una petenada. Dag una petenada. Ma senti, andiamo un po' nei luoghi comuni, no, dei milanesi. Ditemi un po' cosa ne pensate. Per esempio, ogni 10 parole il milanese dice come minimo 3 volte figa, figa, figa, una cifra, babbo. In effetti sì, hai ragione, cioè abbiamo un sacco di intercalare che ci rimangono dentro nelle conversazioni, ma è diventata una cosa naturale. Ma preferiresti incontrare Hannibal the Cannibal piuttosto che trovarti di sera alla stazione centrale? Perché mi hanno detto che fuori dalla stazione centrale puoi fare dei begli incontri. Beh, direi. No, la stazione di Milano fa abbastanza angoscia la sera. Adesso ci hanno messo anche i militari fuori, però io li ho visti giocare a carte, quindi c'è. Con i clochard, con i barboni, cioè diventano amici con i barboni poi. Vincono magari dei soldi contro i barboni, non so. Esatto. Fanno una bisca davanti alla stazione centrale. Vabbè, ma non c'è solo la stazione centrale. Però a Milano abbiamo, vabbè, oltre il Duomo, che è conosciuto in tutto il mondo. Il Duomo è impressionante, no? Tra l'altro è l'unica cattedrale gotica d'Oltralpe esistente in Europa. Bravo. Vabbè, vorrei anche ne vedere. Sai, eh. Ed è una fabbrica in perenne costruzione dal 1190. E poi ci sono i teatri. Ci abbiamo la Scala, il teatro più bello del mondo. Ma ovviamente. Dai, il teatro più bello del mondo. L'opera. Ma stai zitto. L'opera de Paris. Se si pensa a un teatro nel mondo, si pensa alla Scala, in Italia in particolar modo. Abbiamo no, la Scala. Abbiamo di Napoli, scusate. Abbiamo anche la Scala del calcio, che si chiama Stadio Smeazza di San Siro. Poi rimanendo nell'arte. San Siro. Rimanendo nell'arte, c'è. Che molti non sanno, infatti, quando vengono a Milano rimangono stupiti del fatto. L'ultima cena. Di Leonardo. Infatti, la gente arriva, ma sai che c'è l'ultima cena? Ah, bello, andiamo a vederla. Cioè, taccate a c***o. Andiamo a vedere, sono prenotazioni di mesi solo giapponesi, perché i giapponesi lo sanno, però tu però tu quelli tu che ci abitano non lo sanno. No, no, no, ma infatti anche moltissimi milanesi non l'hanno mai vista. Invitiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando ad andare giapponesi a vedere l'ultima cena di Leonardo da Vinci. Sto vivendo una crisi c'è sempre ogni volta che qualcosa non va. Sto vivendo una crisi è nell'aria ogni volta che mi sento solo. So che rimarrò distratto per un po', quindi rimarrò altrettanto distante. Quando inizia una crisi è un po' tutto concesso, quasi come a carnevale. Scuola. E forse non andrei nemmeno al lavoro. Sono questa c'è. Benvenuti, si è sentita la voce di ci Jessica, perché ragazzi, questi meridionali non si contengono, mai. Non riescono a contenersi. Non lavarsi. Ma non sono mica di Piacenza. Allora, noi ce l'abbiamo, a secco, ma ce l'abbiamo. Ah, ecco. Riprendiamo le redini della situazione. Allora, stiamo parlando di Milano, questa città bellissima, grandissima, dove c'è oltretutto il più grande spazio fieristico, perché nel 2015, Giacomo lo saprà, ci sarà l'Expo. Mitico Expo che porterà valangate di denaro e valangate di lavoro. Sì. Ma cos'è l'Expo? L'Expo è una fiera internazionale organizzata ogni volta in una città diversa nel mondo. Infatti, per esempio, l'Atomo che vedi qua e la Tour Eiffel sono dei prodotti dell'Expo che hanno fatto qua. E Milano era in lotta con Smirne, è una città turca. Devo dire che c'è stata una bella collaborazione tra gli enti locali e il governo. Fortunatamente non hanno litigato, nonostante fossero di parti avverse. È una buona opportunità per migliorare la città, una buona opportunità per creare posti di lavoro, portare soldi, portare denaro, portare benessere e fare qualcosa di artisticamente utile. Vale, magari un po' più bello dell'altro. Soldo, guadagnare, spendere, è sempre così. Guadagnare, spendere, ma è così che gira l'economia, ciccia. È così che gira l'economia, dillo a Jessica, no? Noi infatti risparmiamo molto giù a Napoli. Sì, soprattutto sull'immondizia. Soprattutto sull'immondizia, esattamente. Ehi, gattacco. Sempre la cazzima cresce stasera. Una bella lotta, mi piace. Ma però Jessica, ti piacerebbe andare a Milano, non so, e andare nel corso Monte Napoleone? Mazza, sì, Bottega Veneta, voglia. E andare in tutti quei negozi, perché tu sai che... E faccio fare un giro quando viene su. Però guardare basta, perché... Beh, certo, a meno che non sia tu a pagare. Ti metti una... L'uscita non paga, perché il milanese è tirato, è tirato. Certo, il certo. Milanese. Pago come tutto. La tua American Express? Express che è francese, ma all'entrata di questi negozi, no, ci sono questi buttafuori. Quando entri lì dentro ti senti quasi in soggezione se non sei vestito tutto bene. Per esempio, il nostro ospite Anselmo, cioè, tu compri i vestiti alla Caritas per caso? Cioè, compri, alla Caritas sono gratis. Te li fai regalare? No, tu li compri però. A lui, gli chiedono dei soldi, in effetti. Cioè, lui li paga la Caritas, non glieli regalano. E proviamo a fare una gag. Per esempio, se entrasse un milanese a Napoli in una boutique, cosa succederebbe? Allora, Jessica è la nostra splendida e affascinante commessa. Wow. E Giacomo è il nostro milanese che pretende, paga e pretende. Allora, iniziamo questa gag. Entra il milanese. Buongiorno, sto cercando un paio di... Benvenuto. Mi lasci finire di parlare, gentilmente. Ah, scusa. Il mio tempo è prezioso. Sto cercando un... Mi rendo conto. Grazie. No, sa, noi a Napoli siamo abituati a perdere tempo. Sì, lo so. Si deve infatti abituare. Dai, che mi... si troverà mai. Dai che mi parte l'aereo. Ah, ascolti. Mi dica, la posso aiutare? Sì, avrei bisogno di un paio di scarpe. Sì, quante ne vuole? No, due, bastano due. Ho due piedi, sa com'è. Non butto via la roba. Beh, ma i milanesi si cambiano ogni tanto. Sì, ma ne ho altre a casa. Me ne servono due. Ok. Gentilmente, sì. Il numero 10, color ocra. Scusi, ma lei quanti anni ha? Ma scusi, ma saranno cazzo ocra, non lo sentivo da quando ero bambino. Scusi, di anni studiavo ma questo non è un bordello. È un po' tipo l'indaco. È un negozio rispettabile dove non si fa uso di cromo. Ma io ho parlato di scarpe color ocra numero 10. Appunto, ma lei che lingua parla? Ma aspetti, ma per lei o per suo figlio? Ho fucsia scuro. Ma ho detto numero 10, ma lei sa cos'è? Ah no, giallo vomito di appunto, gatto. Appunto, mi sembra un po' piccino il numero 10. Ma no, giallo vomito di cane. Ma no, ma c'è un intruso in questo negozio. Scusi, posso aiutare? No, signore, cosa? No, aspetti. Ma scusi, no, ma non può, ma milanese non può. Si deve ribellare, scusa. Una commessa. Scusi un attimo, servendo. Mi perdoni un momento. Ma io adesso me ne vado, sti barboni qua, vado stanno a rubarsi. Ma scusi, la commessa cosa dice? Lui se ne sta andando indispettito e la commessa napoletana cosa dice? No, ma aspetti, dove va? C'è soltanto lì un barbone. Senta, se quello è un vostro cliente abituale, io qui dentro ci metto più. Fa bene, anche perché forse non accetteremo la prossima. Beh, certo, in effetti. No, non avete la macchinetta della carta di credito? No. Perché questo è il negozio della Caritas, sa? Sempre colpi bassi. Sempre, quindi sempre, potremmo sempre continuare per un'ora. E la chiudiamo qui perché se no voi andate avanti tutta la notte. Già. Tra voi siete state a Milano? Sì, sfortunatamente sì. No, come allora, prima vi ho chiesto se vi piace Milano. Ma nessuno ti ha chiesto di rimanere. Guarda che il tuo paesino in provincia di Parma va benissimo. Prima di tutto io abito in città a Parma. Se Parma si può considerare molto una città, se una città sotto 100.000 abitanti è una città, allora 80.000, scusami, prego. La mia via. Attenzione, la sua è una via molto lunga. 180.000 tenendo conto degli scarafaggi. Chiudiamo questa diatriba che c'è stata tra Jessica, il nostro Giacomo e il nostro Anselmo, e perché siamo arrivati in chiusura. E allora dico a tutti i nostri ascoltatori che chi non ci ascolta il prossimo giovedì è un truzzo, e se sei già un truzzo e sei orgoglioso di esserlo, te che ne scide cur, vuol dire devi ancora farne di strada per esserlo quanto noi. Saluto Bauscia, ciao. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight. I'm in my way.